Buonasera amici e amiche di Alla Conquista del Gioco. Siamo qua con il terzo episodio del nostro podcast, il podcast italiano sul gioco da tavola gestito da dimostratori. Come i primi due episodi siamo qui io, ovvero Pietro e Claudio. Ce l'abbiamo fatta. Ah, ok. Dicevo che eri andato via perché non c'erano reazioni. Ok. Questo terzo episodio ha una gestazione molto più complessa di questo. In questo terzo episodio parleremo di Comics Popoli, la manifestazione Comics Games di Forlì in Popoli che c'è appena stata il weekend passato, il 3-4 settembre, se non sbaglio. E Sì. dove noi Area Games abbiamo gestito l'area ludica che ha ospitato decine di partite a board game. Sì, decine, direi che ci sta benissimo, anche dozzine, dai. Tonnellate, cioè è stata una cosa titanica, insomma. Litri, chilojoule, e vabbè. E quindi parliamo della manifestazione, di come è andata, di cosa abbiamo visto, che la gente pensa del nostro mondo, quali sono i giochi che sono andati di più. Quindi, Claudio, dici, quali sono i giochi che sono andati di più tra quelli che abbiamo esposto? Considerando che ho avuto la mia dose di gioco da tavola giornaliera per più o meno una settimana di fila, e quello è stato il weekend più pesante L'apice. degli ultimi mesi, per giusti motivi, perché comunque eravamo lì per dimostrare e fare quello che piace a noi, quindi divulgare per il bene del gioco. Perché a noi ci piace. Cioè, che a noi ci piace, ci siamo sacrificati mente e corpo sotto sole cocente, in realtà neanche, perché eravamo dentro un tendone dove Sì. che altro eravamo un po' più, diciamo, Più caldo che il sole, sera. esatto. Diciamo che con i titoli che abbiamo portato ne abbiamo giocato molte partite con, diciamo, 5-6 titoli più richiesti di altri. Non perché sono stati più esposti degli altri, ma perché erano proprio più richiesti, proprio perché sia l'immagine o perché magari erano giochi che sono stati visti, ma magari nessuno è mai riuscito a provarli. Nel senso, giochi magari che costano molto e che una persona prima di spingersi a comprarlo vorrebbe testarlo. E quindi abbiamo più che altro spiegato titoli abbastanza grossi, principalmente. Già. E il mio caso è quello di Mice and Mystic, che è uno dei miei giochi preferiti, però Però è diciamo troppo che ne ho abbastanza. avuto anche un bel po' di Mice and Mystic, forse un po' troppo per i fine settimana. Però ci sta, dai. È che Mice and Mystic è un dungeon crawl di media un'ora, un'ora e mezza a partita, e farsi 8 partite in 2 giorni. Stesso scenario all'infinito, poi. Stesso scenario il primo giorno, il secondo giorno l'ho cambiato per motivi di sanità mentale. Dai, hai avuto anche il cambio, non l'hai spiegato solo tu, ma L'ho spiegato, penso, 7 volte io, una volta Saverio, ok? Sì, ho avuto il cambio. parliamo di Maestro Mystic. Perché secondo te Maestro Mystic va tanto? Ma va tanto. In realtà Mice and Mystic si presenta bene, quindi è per quello sicuramente l'aspetto. È l'aspetto che dà l'impatto iniziale al gioco. Non voglio dire che sia un gioco che non, lo me che non merita, è un gioco che merita molto. Un zombie side. No, non è come Zombicide. Appunto, un gioco che ha l'aspetto bellissimo, non merita il zombie side. Tra l'altro, facciamo un piccolo chiarimento: era vicino a Zombicide Black Plague il secondo giorno, Mice and Mystic. Zombie side, una partita, ma messo in mistica. Allora. Zombicide Black Plague, penso una partita, Mice and Mystic, 4 partite un giorno, 4 partite il secondo giorno, sì. Vabbè, non è una gara, dai. No, anche non è una gara, poi Black Plague c'era solo il secondo giorno, la domenica, il sabato non c'era neanche. Allora, Mice and Mystic, perché si presenta bene? Perché è un gioco su topi fantasy, quindi tu vedi la copertina, ci sono questi topi cavalieri maghi, e la figura di un gatto arcigno che alle loro spalle li guarda in modo molto molto arrabbiato, quindi davo, sai, come si può dire di no a un gioco che si presenta così, con tutti gli amanti di gatti e animali che ci sono a questo mondo? Cioè, te lo compri o desideri comprarlo, e lì arriva il prezzo sono bene o male 60 euro per il gioco base, altri 60 per l'espansione, quella grande, se no c'è un'espansione minore che verrà sui 20-30 euro, però è un gioco che rispetto al prezzo non è neanche tanto perché contiene una grande varietà di miniature, contiene più di 20 ore di gioco assicurate se il compratore ha il gruppo giusto con cui giocarlo. E inoltre ha anche diverse variabili, quindi si può anche rigiocare più avanti nel corso degli anni, Sì, o esatto. nelle aree demo più volte la stessa missione, se si vuole. Però Tra dimmi. l'altro, un piccolo insight per chi Miles & Mystics lo conosce. Qual era la missione il primo giorno? Ma era la prima quest, quindi quella più semplice. E quant'era la percentuale di sconfitta? La percentuale di mortalità in una qualunque quest di Miles & Mystics bene o male è al 50% delle volte. E la vediamo invece quanto è stata, dai. Ma l'hanno perso solo una volta su quattro, se non Ah. ricordo male. Il secondo giorno invece era il secondo scenario. Era il terzo scenario e mi pare che l'abbia, quando l'ho fatto è stato testare io, l'abbiamo vinto sempre, però sempre a rischio morte, diciamo. Ma è anche per il fattore push or luck, cioè dà molto ai dadi il gioco, ovviamente, anche il fattore della sconfitta. Però ci sono state, cioè, comunque nella partita c'ero dentro anch'io ogni volta che lo spiegavo, e quindi diciamo Quindi che facevo la mia calibravi. parte per evitare la sconfitta. La tua esperienza calibrava l'esperienza dei neofiti. Anche perché molto spesso i giocatori erano anche bambini. Sì, però mi hanno sorpreso. Molto spesso, che io mi trovo spesso con i bambini a giocare, trovo dei bambini che sono molto più svegli anche degli adulti a volte e ti possono anche far notare che ti sei scordato qualcosa o può addirittura diventare più forte di te nel gioco e fare cose in più. Quindi in realtà non si bisogna sottovalutare i bambini. A volte sono loro che aiutano te, più che tu che aiuti loro. Comunque, tornando a Miles & Mystics, che cos'è? Per chi vorrebbe provarlo o comprarlo, è un dungeon crawl, cioè un gioco di esplorazione di stanze dove principalmente bisogna combattere dei nemici. Quindi si lega molto a giochi del calibro di Descent. Però, a differenza di Descent, che è un gioco molto grosso e molto pesante, perché ogni partita di Descent può durare oltre le 3 ore, Miles & Mystics è un gioco che è diviso in 11 quest, il gioco base. Ogni quest in media dura da un'ora a un'ora e mezza di gioco, quindi non è necessario lasciare il gioco apparecchiato sul tavolo per poi continuarlo più avanti come in Descent. Anzi, se si vuole, si riescono anche a fare tranquillamente due quest di fila. Però, altra differenza di questo della durata, l'altra differenza che ha con Descent è che è una versione di dungeon crawl più adatto alle famiglie, perché ha un regolamento molto semplice e si basa molto sull'ambientazione, quindi è legato al fatto che i personaggi sono dei topi. Il dungeon è pieno di trappole per topi, pezzi di formaggio, i tuoi nemici sono degli scarafaggi, altri ratti, mille piedi, c'è un gatto che ti vuole mangiare, quindi ha questo fattore molto fantastico da cartone animato, però legato anche alla battaglia nel labirinto, all'evoluzione del personaggio, all'accumulamento di punti formaggio che serviranno o a salire di livello o a utilizzare abilità extra, quindi è una versione per famiglia di un dungeon crawl. E il manuale di gioco, nel suo regolamento, dice che se i giocatori falliscono la missione, possono ugualmente proseguire con quella successiva senza problemi. Quindi ha anche l'aspetto semplificato, non ti, cioè, tu volendo, trovi anche il manuale, puoi tranquillamente passare oltre anche se sei stato sconfitto magari nell'ultima stanza per il colpo di un tiro di dado o cose del genere. Sì, è un gioco adatto a padri e figli, per dire, quello sicuramente. Sì, perché il gioco ti arriva con il manuale del regolamento e il manuale delle missioni che ti introduce alla storia, perché proprio questo è proprio una storia che devi raccontare missione per missione. Quindi tu inizi dalla prima pagina che ti spiega che c'è un vecchio topo che legge al suo nipotino Topolino questo racconto di questi eroi. Che erano degli esseri umani, sono diventati topi per sconfiggere la strega Vanessa e liberare il regno dalla sua tirannia e salvare il re. E quindi ogni volta che tu vai avanti nella storia e fai una nuova missione, ci sono le interazioni tra i personaggi, dei dialoghi scritti che si possono leggere e recitare, e poi come si prepara una nuova missione, cosa bisogna fare per superarla, e durante la missione ci possono essere altri intermezzi tra i personaggi che parlano a seconda di cosa hai combinato tu in certe mappe. Inoltre, i personaggi possono trovare oggetti speciali che possono ottenere nelle missioni successive, possono inserire di livello, possono trovare oggetti che tutti insieme possono usare, si chiamano oggetti di gruppo, che possono essere cose molto buffe, tipo il Chicco d'Uva, che può essere utilizzato per attirare gli scarafaggi che si vengono a mangiarlo, ma può anche diventare una potentissima arma se viene combinato con la forchetta. Perché usando una forchetta noi possiamo catapultare il Chicco d'Uva e spiaccicarlo sopra un sacco di nemici. Quindi c'è anche ingegno e molta fantasia nel gioco. E se un personaggio viene sconfitto, non viene eliminato dalla partita, a meno che non vengano sconfitti tutti, in quel caso si è persa la missione. Ma quel personaggio viene definito catturato e liberato a fine della battaglia, quindi diciamo che non ha neanche il fattore eliminazione che molti giochi di solito hanno. E si presenta molto bene, ha questo fattore che ci sono diverse azioni che possiamo fare nel nostro turno, si può cercare molto spesso oggetti, quindi c'è anche il fattore curiosità, oh, adesso chissà cosa pesco, però può essere negativo a volte, perché si possono pescare anche imboscate, non si sa mai, o formaggi avvelenati. E è un gioco che è adatto a giocare in famiglia o con un gruppo di amici, perché è una storia che va avanti, e quindi se tu vuoi giocarlo nel vivo, questo gioco devi prima di tutto metterti d'accordo con qualcuno e decidere di giocarlo insieme con la persona, magari una volta a settimana o anche due. Ok, una cosa aggiungerei, se non sbaglio, Descent, tra l'altro, o Descent, come lo dice qualcuno, richiede che un giocatore faccia l'overlord, mentre ad esempio Meister Mystics, avendo scenari già scritti e una meccanica di movimento dei mostri, non ha questa necessità. Però può darsi che Descent sia così soltanto nella campagna. Comunque, Sì. Sì, il fatto che un giocatore non sia obbligato a controllare i mostri la vedo come una cosa positiva, perché normalmente il giocatore controlla i mostri e si annoia. più che altro con un giocatore che controlla i mostri non è un cooperativo. Cioè, dato che è un gioco per famiglie, Mice and Mystic, si può definire un cooperativo per questo aspetto. Se ci fosse un giocatore che come obiettivo ha quello di sconfiggere gli altri, non sarebbe già più un gioco cooperativo. Beh, sì, lo sarebbe ancora, eh. No, non sono d'accordo. È un altro. Cioè, È un altro dipende. discorso. Cioè, è un discorso un po' strano. Ci sono giochi che hanno questa meccanica, sono definiti cooperativi, però non è proprio Sì. l'idea di cooperativo che ho io in mente. Cioè, ad esempio Ghost Stories con la seconda espansione o anche Pandemic con l'espansione che aggiunge il bioterrorista e compagnia bella. Sì, la Last Night on Earth e così via. Sì, la stanza mia, appunto. Vabbè. Però no, il mio punto di vista è questo. Secondo me non sarebbe peggio, perché comunque è fatto per essere un gioco per famiglie, quindi una figura ostile non la vedrei bene. Cioè, posso capire in giochi come Le Case della Follia che sono fatti apposta Che per tra l'altro. essere giochi che si basano sul farti digrignare i denti di continuo, ma questo qui è un gioco fatto per il piacere di vivere una storia. E forse sarebbe un po' al negativo, cioè o il giocatore che controlla i mostri va alla leggera, oppure sarebbe più un incubo che una favola, insomma. Tra l'altro nella nuova edizione delle Case della Follia l'hanno tolto al giocatore che controlla i mostri, c'è un'app adesso che controlla i mostri. Sì, beh, quello a parer mio può essere È un pregio. positivo. per certi versi, sì, perché quel gioco lì è veramente pesante per i giocatori. Più che altro il custode era tremendamente limitato, secondo me non era divertente come ruolo, però. Comunque, My Sim Mystic, quindi è un dungeon crawl per famiglie, ha un prezzo buono rispetto a quello che contiene, perché contiene molte tessere, mappa, una ventina di miniature, diverse carte e i famosi fantastici dadi personalizzati, fette di formaggio, torte in token e cose varie. Per le ore di gioco che comprende una sola campagna, merita il suo prezzo. Secondo il mio parere, ed è quello che mi è stato lasciato detto anche dalle persone che l'hanno giocato. C'erano diverse persone che volevano già comprarselo, mi hanno chiesto più o meno dove si poteva trovare o a che prezzo si può trovare il gioco, e non ne sono rimasti colpiti, cioè hanno detto che probabilmente è un prezzo abbastanza onesto per quello che è, quindi Considerando direi che un che ha. pieno di cubetti costa poco meno. Sì, e questo è molto più personalizzabile, diciamo, perché comunque tu ti porti avanti un eroe che ti scegli in sua partita e te lo personalizzi a modo tuo, con i equipaggiamenti che troverai. Quindi è anche quello di bello. My Sim Mystic in Italia è edito da Raven Distribuzioni, quindi mi sto incartando. È molto facile da reperire in un negozio, è una buona distribuzione, Raven è qui delle nostre zone di Lugo. Ok, ci siamo soffermati molto su My Sim Mystic, proseguiamo. Un altro gioco che è andato molto all'area demo e che, a cui non avrei dato una cicca è Winter Tales. Allora, Winter Qui però sbagli, qui sbagli perché Winter Tail si presenta molto bene, quindi si sapeva che sarebbe andato molto. Tales. Però sai, quando spieghi alla gente, ah, ma sto gioco è narrativo da tante persone, pensavo che invece. Fortunatamente avevamo il dimostratore giusto al momento giusto, ma fammi fare un preambolo. Allora, Winter Tales della Albe Pavo, io l'ho beta testato anni fa, quindi l'ho provato ancora quando era un prototipo, ma era praticamente identico a come è adesso, anche la grafica era già quella. E ai tempi non rimanemmo molto colpiti perché secondo il nostro gruppo di tester, l'idea di fondere un narrativo a un gioco competitivo con plancia e una meccanica di maggioranze delle carte giocate era l'antitesi. Ancora oggi io non mi sono ricreduto perché giocandolo con le persone sbagliate quel gioco diventa io butto giù più carte di te a caso soltanto per vincere lo scontro. Comunque c'è anche gente che gioca così se una volta, quindi non scopriamoci. Però devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso e colpito dalla gente che è venuta all'area demo come ha accolto Winter Tale, che sicuramente dal punto di vista scenico è meraviglioso perché gli Ocularis, mi sembra si chiami l'illustratore con nome d'arte, è bravissimo. È lo stesso di Sakae Samurai, Carnival Zombie e Birre Vikings e Munera Famiglia Gladiatori, mi sembra, ed è bravissimo. E Winter Tale ha un immaginario fantastico, anche l'idea di fondo è fantastica, però, come dicevo, è un narrativo, un genere che normalmente può spaventare le persone che non sono dedite a parlare molto, a mettersi al centro dell'attenzione. Soprattutto Winter Tale richiede un numero equilibrato di persone, perché se i giocatori sono in numero dispari, un giocatore deve fare il custode o giudice, o narratore, ecco, narratore, Narratore, sì. che secondo me è un ruolo un po' a caso. Fortunatamente, quando capitava a noi, il narratore lo faceva il nostro dimostratore, il buon Cosimo, che per 2 giorni ha spiegato solo Winter Tale. Ma lui lo adora quel gioco e l'ha fatto con passione, l'ha fatto benissimo. E facendolo lui, che comunque era lì per spiegare il gioco, è andato bene. Secondo me quel ruolo, se fatto da un giocatore la prima partita, non è divertente, è molto forzato come cosa. però l'importante è che sia piaciuto e a quanto pare è piaciuto a tutti. E l'unica cosa, una cosa giusto, mi ha fatto notare Cosimo, visto che lui le partite se le ha viste tutte, le ha giocate tutte, le persone, quasi tutte almeno, danno le stesse definizioni per le carte, nonostante le carte siano disegnate dai figli dei creatori del gioco, dei bambini, diciamo, più grandi, insomma, che 9 anni. E quindi sono immagini abbastanza minimali, e comunque, cioè, pur essendo minimali, appunto, sono facilmente riconoscibili. Tipo un albero è un albero, anche se diciamo un bambino è ancora più facile. Le persone nella storia, nelle storie che raccontavano nelle diverse partite, usavano allo stesso modo le carte, anche quelle un po' più strane. Quindi diciamo che erano giocatori un po'. Come dire, Erano dei casual gamer, no, non quindi voglio giocatori, dire no. quello, che non voglio dire hanno poca fantasia perché è brutto, però diciamo che non si impegnavano tanto nel cercare un significato nascosto nella carta, come può essere una partita di Ixit in cui in una carta col fuoco dici fuoco come gift, invece che dire emozione vibrante, che ne so. E niente, il nostro caro buon Cosimo si era sorpreso di questo fatto che la gente non si impegnava più di tanto a dare definizioni alle carte per arricchire le storie, ma si limitavano praticamente ad aggiungere quello che la carta rappresentava graficamente. Un'altra cosa curiosa del nostro amico dimostratore è che ha detto che ogni persona che l'ha giocato ha avuto un'impressione diversa a fine partita del gioco. È vero. È vero. In effetti è un gioco molto particolare e sperimentale, perché questo fonde due meccaniche che tecnicamente non hanno niente a che fare l'una con l'altra. E in più Cosimo mi diceva anche che lui consiglia, visto che lui ci ha giocato molte più volte di me, di non costringere i giocatori a narrare gli spostamenti e tutte le cose secondarie, ma narrare soltanto gli scontri con buoni e cattivi delle due squadre, perché il gioco nel regolamento dice di raccontare anche ogni singolo spostamento che fai nella città, nella plancia, quindi. E effettivamente a un certo punto le idee finiscono e cade sul ripetitivo, anche perché i posti sono sempre quelli. Il motivo per andare al manicomio dopo 5 partite non è che non puoi trovare dei nuovi. Sì, ma non c'è ne proprio bisogno di, cioè, che motivo hai di narrare come hai fatto arrivare da punto A a punto B? Non è proprio necessario, cioè. Se vuoi fare ogni tanto una partita ipernarrativa ci sta, però ogni tanto, cioè ogni partita dopo ovviamente finisci, perché la casa di Dorothy è la casa di Dorothy. Non puoi inventarti 10 motivazioni diverse ogni volta per andare alla casa di Dorothy. Ma non è proprio il motivo dell'inventarsi, che non è necessario, cosa serve? Cioè, non ne vedo il motivo. Neanche un libro, cioè, ti devono spendere tipo ogni pagina a dirti tutti i passi che ha fatto il protagonista per andare qui a qua. Cioè, Sì, è vero, non. ovviamente hai ragione. E niente, Winter Tales, che è anche questo di Abe Pavo come sviluppatore, però distribuito anche questo da Raven Distribuzioni, anche questo qui nei negozi si trova abbastanza bene, non so se è stato ristampato, è ancora la prima stampa di un paio d'anni fa. Anzi, addirittura nella distribuzione di Winter Tales c'è anche la Fantasy Flight in mezzo, se non sbaglio. E il costo di copertina in questo momento non mi sovviene, dovrebbe essere sui 40, tra 40 e 50, penso. Sì, credo sia dei 50 in su, se non Ok. ricordo male. Passiamo a giochi un po' più soft che sono andati tanto. Io un paio di sorprese ce le ho, però sentiamo cosa hai da dire tu. Giochi più soft che sono andati, intendi? Sì, io ne ho un paio che erano no novità per noi alla demo e sono andate tantissimo. No, io sono andato più sulle corse, ho giocato molto a Rush and Bash e a Dino Race. Ah, è vero. Perché, allora, diciamo che hanno due target diversi. Dino Race attira molti bambini perché ci sono i dinosauri infatti amo di peluche piccolini. No, peluche no. Invece Rush and Bash ha attirato anche diverse, oltre alle famiglie, anche adolescenti ogni tanto, quindi. Perché si presenta con quello stile da Wookiee Racing, quindi magari ricordi il cartone animato quando anche erano bambini, magari, non so. Ricorda, sai cosa molto anche a livello di colori e tutto? Più che Mario Kart, Crash Team Racing o Crash Nitro Kart. Sì, però quello che mi è stato più detto spesso è che assomigliava al cartone animato Wookiee Racing, mi dicevano proprio le persone, quindi direi che è quello l'impatto principale. Quindi parlerei principalmente di giochini di corse a questo punto. Sì, vai, prego. Beh, allora, Rush and Bash, come dicevo, è ispirato o ai videogiochi di corse tipo Mario Kart, dove ogni giocatore seleziona un personaggio con una macchina personalizzata e durante la pista ha la possibilità di utilizzare delle armi per depistare o danneggiare le macchine degli altri giocatori. E quindi ha questo fattore molto cartonesco. È un gioco Red Glove che contiene come personaggi ogni personaggio derivante da loro altri giochi del catalogo. Per esempio, c'è l'ognomo che c'era in Super Fantasy che avevamo sempre lì con noi. E Sì, poi c'è lo stregone voodoo avevamo anche Voodoo, infatti. ispirata mi ricordo che c'è anche il gioco di pirati lì. Poi c'è un Goblin, che non so da che gioco sia, un bambino con i draghi e Penelope Pitstone di Wookiee Races, praticamente, Quella uguali cos'è? identiche. Quella Che cos'è? è la ragazza bionda con la macchina Razz. Comunque sono sei personaggi, inizio partita, ogni giocatore si sceglie il suo personaggio con la sua propria scheda. Ogni personaggio ha una macchina che ha 3 punti ferita e uno slot per 3 punti abilità, che sono delle stelle. Ottenendo più stelle si possono utilizzare abilità speciali, avendole al massimo si può utilizzare l'abilità unica del personaggio, utilizzabile in qualunque momento del proprio turno. Però utilizzando questa abilità finiamo i nostri punti stella. È un gioco di corse dove semplicemente noi abbiamo delle carte in mano che ci dicono di quanti passi facciamo per andare avanti, se cambiamo corsia o se utilizziamo oggetti speciali tipo bombe da tirare addosso a qualcuno o dei missili da tirare dietro a qualcuno. A volte possiamo anche fare certe, diciamo, birbonerie per dare fastidio agli altri e farli distruggere le macchine, cosa che ho visto molto spesso, tipo padri che fanno deragliare figli o il contrario anche, soprattutto figli molto malefici che prima ti sparano il razzo, poi ti tamponano e ti fanno cadere sul macigno, quindi ti becchi 3 ferite e la tua macchina esplode di base. E torni nel checkpoint come nei videogiochi, quindi torni indietro in una certa zona che hai sorpassato e la tua macchina torna in vita in quel punto. Questo l'ho visto, un bambino che ha fatto questa combo al padre l'ha sconfitto in un turno, la sua macchina l'ha fatto tornare indietro di parecchi passi. E niente, il gioco è tutto un tirarsi armi addosso, distruggersi, sorpassamenti, sbattere contro sassi, Se finché un giocatore non taglia il traguardo e arriva primo. la parola giusta è Quindi sorpassi, non sorpasso bene. sì. Cosa c'è da dire del gioco? I personaggi, l'unica differenza vera che hanno, bene o male, è l'abilità speciale unica. Perché le abilità secondarie ce ne sono tre, e quindi ci sono coppie di personaggi che hanno la stessa abilità secondaria, che può essere curarsi, lanciare missili o curvare. L'abilità primaria è uguale per tutti, che mi sembra sia tipo giocare una carta extra o qualcosa di simile. Anzi, no, quella è l'abilità secondaria, l'abilità primaria è diversa. L'abilità terziaria per alcuni personaggi è qualcosa di mostruosamente potente, per altri è qualcosa di molto più debole. Quindi diciamo che alcuni personaggi sono un po' più sbilanciati di altri. E la cosa si vede spesso nelle partite. Cioè, se certi personaggi raggiungono 3 stelle, possono vincere da un turno all'altro a distanza di parecchi passi, mentre altri possono fare degli effetti che non sono. Così Che forte. non ti portano alla vittoria, ma semplicemente rallentano un pochino gli altri, ma sono di 2 livelli completamente diversi. Quindi la pecca del gioco è lo sbilanciamento dei personaggi, ma questo non penso che venga notato molto, a meno che non ci siano dei giocatori che lo giocano proprio per vincere. Se lo si gioca per divertirsi, è la meno. Sì, è un gioco comunque che si rivolge a un target giovanile, non è. Sì, cioè, si basa sul picchiarsi più che altro, quindi dai, tutto Tu stai lì per tirare le bombe addosso agli altri, non per vincere. Per buttarti addosso i macigni. Poi, se si vuole proprio accedere, ci sarebbe anche il vulcano e altre cose divertenti dopo, però. In area demo andiamo più sul soft, dopo se richiedono mettiamo percorsi più particolari. Mentre poi sarebbe Dino Race. Dino Race, non so se tu hai mai avuto occasione di Sì, giocarlo. l'ho anche spiegato da come si copre. Ok, quello c'è chi a volte toglie l'uovo come meccanica, però ho visto che i bambini preferiscono avere l'uovo perché è proprio più dispettoso l'uovo. Cioè, vogliono giocare l'uovo così te lo passano e ti brucia in mano quando il vulcano si attiva. Senza uovo è molto. Il gioco è la metà, praticamente. Sì, l'uovo ha il suo perché. Comunque, che cos'è Dino Race? Ogni giocatore sceglie un colore di dinosauro e hai due dinosauri del tuo colore. Tutte le coppie di dinosauri partono da una tessera iniziale e devono arrivarne entrambi nell'ultima tessera della plancia per fare in modo che quel giocatore sia il primo giocatore ad aver vinto la gara. Questa gara però è seguita da un vulcano che all'inizio della partita è spento dietro alla nostra tessera iniziale, c'è questo vulcano, che potrebbe attivarsi a fine del turno di un giocatore e far scendere lava turni per turni a seconda di quello che succede e bruciare i nostri dinosauri. E in mezzo a queste cose noi abbiamo anche un uovo che ci fa da patata bollente che un giocatore in sua partita avrà in mano e potrà passare agli altri perché ogni volta che il vulcano si attiva o della lava scende, questo uovo inizia a scottare, ci fa perdere una carta se non ricordo male. E questo uovo dobbiamo passarlo direttamente a un altro giocatore subito dopo come dispetto, però il giocatore che riesce a finire la gara, che sia primo, secondo o terzo, ma l'uovo in mano fa dei punti extra. Sì. Quindi è una patata bollente che però ha anche i suoi pregi. Alla fine ti vuoi tenere. Che però non ti puoi tenere se inizia a scottare, quindi bisogna stare anche attenti. Se puoi lanciare anche volontariamente con le carte. Sì, se no puoi passarla con le carte. E semplicemente noi abbiamo delle carte che rappresentano i percorsi che abbiamo davanti, che sono giungla, deserto, pianura e foresta. Abbiamo delle carte che rappresentano questi. Possiamo giocarne due uguali per fare un passo in avanti, oppure una che ha la stessa figura della casella in cui dobbiamo andare per andarci avanti. Quindi, se io sono davanti a un deserto, gioco una carta deserto e faccio andare avanti di un passo il mio dinosauro. È tre Se dopo uguali. c'è una giungla, posso giocare una carta giungla e fargli fare un altro passo e così via. Tre È tre uguali, non due uguali. uguali, sì. Qual è il problema? Che io devo cercare di farli muovere tutti e due, perché prima o poi arriverà la lava e mi brucerà quello che è rimasto indietro. Se lo brucio faccio dei punti meno a fine partita. Ed è tutta una gara contro il tempo, perché fidatevi, in tutte le partite che il vulcano si attiva prima o poi. E poi ci si fanno gli sgambetti tra i dinosauri. Si danno un po' di codate, si fa tornare indietro gli altri. Si danno le codate, oppure la carta del lancio dell'uovo, se non c'è l'uovo, puoi fare lo sgambetto che cadi per terra. Esatto. Quindi è il gioco anche di dispetti, di rubare carte. Invece questo gioco in Italia è edito da Devir Italia. Nuova filiale dell'internazionale Devir che si è lanciata nel mercato italiano con un bel po' di titoli e che ha anche una buona distribuzione, quindi anche Dino Race si trova abbastanza bene, costo sui 25, non ricordo, Sì, penso costi più o meno 25. da 25-30. Adesso oggi non posso controllare perché ho le mani occupate e non posso visitare lo schermo. Ok. Quindi abbiamo parlato di giochi di corsa, adesso parliamo di due novità, come dicevo prima, delle nostre area demo, che sono andate tantissimo. Allora, uno è Rondo della Schmidt e di Reiner Knizia, torna al nostro amato Knizia del primo episodio del Signore degli Anelli. E l'altro è Games of Train della Da Vinci. E Da Vinci adesso si chiama editrice o edizione, non mi ricordo. Vabbè, Da Vinci Games. Tu li hai provati? Rondo lo conosco, Games of Train non ho la minima idea di Ok. come funziona. Allora, Games of Train è un minuscolo gioco di carte, ma proprio scatolina minuscola come abituato alla Da Vinci, no? A quello che si intavola e vende, proprio una Sì, cosa. i loro giochi loro sono principalmente per giochi di carte. No, adesso si sono un po' espansi ultimamente. Ultimamente hanno iniziato a fare anche giochi un po' più grossi, tipo Bruges, Leo va dal barbiere. Leva dal barbiere. Com'è che si chiama quello lì, Castello del Diavolo, Dark Tales? Quelli sono di carte. Sì, ma un pochino più grossi degli altri, una volta che erano tutti tascabili. Vabbè, allora dicevamo che. Games of Train, che è un gioco di un collettivo di creatori di giochi da tavola, quindi un gruppo di 3 persone che creano giochi. Il nome del collettivo non me lo ricordo perché sono del nord-est Europa, quindi non ho guardato di che nazionalità, ma penso polacchi. E scusate se sto dicendo castronerie, sto andando a ricordo. E in questo gioco semplicissimo, i giocatori hanno all'inizio partita davanti una locomotiva e 7 carte davanti, e 7 carte attaccate alla locomotiva. Ogni carta, ogni vagone ha un numero. All'inizio partita i vagoni sono messi in ordine crescente partendo dalla locomotiva. Il nostro scopo è finire la partita in ordine contrario, decrescente. Quindi lo scopo della partita è semplicemente ribaltare completamente i nostri vagoni. Le carte hanno due cose: il numero, a parte il disegno con il vagone che trasporta cose a caso, hanno un numero e sopra un potere. Quando i vagoni sono nel nostro treno, vale solo il numero. Quando sono nel display al centro della tavola, vale il potere. Quindi le carte hanno due effetti diversi. Durante la partita, il nostro scopo è scambiare parti del treno utilizzando i poteri delle carte scoperte dal mazzo nel display centrale, oppure rimuovere carte dal treno, o bloccare una carta in modo che non sia affetta dai poteri, perché c'è una carta che ha il potere al lucchetto, se tu lucchetti un vagone, quello lì è immune ai poteri negativi, perché le carte che rimuovono l'ultima, la prima o la carta centrale di un treno, se un giocatore sceglie questa carta, ha un effetto su tutti quanti. E quindi il lucchetto serve per salvarti. Tu sei al tuo primo vagone bello che ti va bene così per finire la partita, te lo lucchetti. La prima volta che un giocatore usa il potere, tutti quanti rimuovono la prima carta del treno, tu sei protetto. Ogni volta che una carta è rimossa viene immediatamente sostituita da una dal mazzo. Sempre durante tutta la partita il treno di un giocatore ha 7 carte oltre alla locomotiva. 7 perché devono essere 3 più una considerata centrale più altre 3, perché certi poteri hanno effetto sulla carta centrale del treno, quindi deve essere un numero dispari per avere una carta centrale. E Games of Train è tutto qui. Eppure è andato tantissimo. Infatti è anche un'idea geniale, secondo me. È stato uno di quei giochi sorpresa come DAO dell'amico che mi è piaciuto da morire. E anche questo qui, essendo della Da Vinci, in Italia è facilissimo trovarlo perché è editore italiano che c'è da una vita. In più ha un costo bassissimo, 9-10 euro parliamo. E veramente, veramente carino. Ti ho convinto? Beh, sicuramente una prova se la merita adesso. Tanto se è un gioco che abbiamo noi da far testare, posso anche richiedere un venerdì per provarlo. Esatto, e tra l'altro ha veramente una scatola piccola piccola perché ci sono proprio le carte a malapena, quindi è proprio tascabilissimo, non come altri giochi di carte che hanno la scatola senza alcun motivo gigantesca come... Dai, a Monster, lo so che lo vuoi tirar fuori. Sì, volevo dire, cioè, è veramente assurda la scatola di Diamonster, ma alcun... Ma non me lo aspettavo neanche io quando ho ordinato quel gioco, cioè le immagini non sembrava così grande la scatola. È veramente assurda, la scatola è 4 volte più grande di quello che serve. Esatto, comprate Daia Monster, così sapete di cosa stiamo parlando. Vabbè. Non è brutto, è solo il No, no, è fatto un bel gioco, che è però ha uno piccolino. spazio, si occupa come tre giochi da tavola, dentro ci sono 40 carte e 6, 10 pezzi di cristallini piccolini. Vabbè, piccolo. questo piccolo excursus, queste curiosità per farvi conoscere giochi strani come dai mostri, che però è carino. Torniamo all'area demo, ormai siamo in chiusura perché stiamo andando, sì, siamo quasi sui 50 minuti di registrazione. Andiamo, parliamo di Rondo e poi facciamo un rapido excursus, tipo citiamo soltanto gli altri giochi super giocati e basta. Allora, Rondo invece è un astratto di Rainer Knizia, nostro famosissimo, più prolifico creatore di board game del mondo. E Rondo è edito dalla Schmidt, costo 25 euro più o meno, questo lo so perché me l'hanno chiesto, sono dovuto andare a vedere durante l'area demo, perché Rondo anche è uno di quei giochi che ci hanno detto il giorno stesso, ah, questo lo compriamo, tutte persone. È questo gioco astratto dove i giocatori hanno una porta, come possiamo, token, chiamiamoli token, fish, ok, almeno tutte fish. Perché il gioco è composto da delle fish che si pescano da un sacchetto e un tabellone dove piattarle. E quindi i giocatori hanno questo loro display porta fish in cui tengono le fish che pescano. E praticamente il gioco è di una semplicità mostruosa. Tu, per fare punti, devi coprire un numero, uno spazio a tabellone con un numero di un colore con la fish del rispettivo colore. Giusto? Giusto. Giusto. Perché chiedi conferme? L'hai spiegato tu, il Sapere se c'è gioco, no? ancora lì. Sì. All'inizio partita tutti quanti possono partire soltanto dal centro della figura del tabellone, che è questo cerchio con una croce dentro. O sono due cerchi e una croce dentro. Ok, dopodiché puoi partire a piazzare da qualsiasi altra gemma piazzata, quindi le mosse degli altri giocatori ti aprono anche nuove strade. E tu nel tuo turno puoi fare anche piazzamenti più lunghi, ma devono essere tutti continui e non puoi diramare, quindi per poter fare piazzamenti più lunghi sei costretto per arrivare a un certo numero, a coprire anche altre tessere con lo stesso, col giusto colore, quindi devi avere la giusta combinazione per tappare. A meno che c'è un modo per poter arrivare dove vuoi senza dover usare la tessera giusta, che è tappare lo spazio con una fish girata al contrario che non fa fare punti, perché le fish appena vengono piazzate guadagni immediatamente il punteggio. Questo è importante anche perché dopo, durante la fine partita è un po' impossibile dire ah, questo l'ho fatto io, questo l'ho fatto io, quindi vengono fatte tutte in tempo reale. È questo gioco semplicissimo in cui tu peschi fish e piazzi fish per fare punti, ma è un astratto molto carino che è piaciuto a tutti. E come dicevo, è edito dalla Schmidt, quindi in Italia penso che si trovi più che altro nei negozi quelli molto riforniti, più che un negozio casual che tiene pochi giochi distribuiti in Italia, perché la Schmidt è Schmidt. Ah, tedesca. ricordiamo Skull King della Schmidt. Sì. Costo sui 25 euro, se non vado errato. Ed non è neanche vecchissimo, pur essendo un cronista, perché ultimamente lui fa più che altro giochi per bambini, stile ABBA. E invece questo qui è del 2012-2013, non è vecchissimo. Ok, quindi ora parliamo un altro 2 minuti degli altri giochi super giocati. Allora, avevamo la Guerra dell'Anello e la Battaglia dei 5 Eserciti, due film famosi. Oh, quelli hanno creato, erano pieni tutto il giorno in cui sono stati. Poi dopo sono stati Le esiliati abbiamo messi perché non ne potevamo più. perché sono giochi molto lunghi. Ho fatto di tutto io per non spiegare la Guerra dell'Anello il primo giorno e alla fine mi ha toccato pure a me spiegare la Guerra dell'Anello, perché gli altri due che lo sapevano erano già occupati. Erano andati capo. Sì. E poi abbiamo i classici Voodoo, due copie di Voodoo, Due copie di infatti Voodoo. erano entrambe utilizzate in contemporanea di Sì. solito. Una delle due copie addirittura aveva entrambe le espansioni dentro. Poi c'è il nome in codice che si fa sentire ogni volta. Due copie grazie agli amici della Crown Creation che ci hanno prestato la seconda copia. Grazie amici, grazie. Ah, E poi abbiamo anche Star Realms è andato veramente tanto. Star Realms addirittura ha fatto proseliti. C'è stato un ragazzo che quante partite, ogni mezz'ora tornava a giocare a Star Wars e si sfidava una persona diversa del nostro team. Quante partite aveva fatto quel ragazzo? 8 più una roba simile, Cioè, lui minimo proprio, 8. quando è tornato a casa, questo ragazzo ha fatto acquisto sicuro Star Wars perché lo ha adorato fin da subito. E poi che è andato tanto, fammi pensare. Vabbè, della Bioviva, Playa Playa, che è un nostro, ormai è diventato un nostro classico. Avevamo Giga Colt Express. Colt Express gigante, anche quello che mi è andato tanto, anche perché è la versione fieristica che si è prestato a Stereon, e quindi ha il suo perché. Poi c'è. Se volete vederla, andate a vedere le foto della manifestazione sulla nostra pagina Area Games, Associazione Area Games. Iha! Cercate Colt Express gigante. XXL. Sì. E poi fammi pensare un altro. Camisado, Camisado c'era, Camisado ho Camisado. giocato molto, molto Camisado. Altro bellissimo astratto scacchistico. Le torri sumo vanno sempre. Poi la torre di animali, classici giochi ABBA che vanno sempre, Fantascatti, 5 minuti e mezzanotte è andato tanto, Perudo. Ma abbiamo avuto anche Last Will il primo giorno che ha Sì, avuto i suoi momenti. per essere un gioco lungo, la Swill ha dato, devo dire che ha dato. Abbiamo avuto una partita Spectre Ops. No, beh, quella era una cosa più interna. Sì. E sì, direi che abbiamo detto tutto. Il resto, cioè, in realtà abbiamo molti più giochi di quelli che vi ho detto, però stavamo cercando di citare quelli che proprio erano sempre pieni. Se volete vedere cosa avevamo, andate sulla nostra pagina Sostenere Games, nella foto di Comixpopoli, ci sono 150 foto quasi. Quindi ne avete da vedere. Bene. Soprattutto il cowboy a Colt Express avevamo anche. Sì, è vero, abbiamo anche il costruttore di Bene, bene, bene. Io direi che siamo arrivati anche questa settimana, giusto? Giusto. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Quindi fino a giovedì prossimo siamo liberi. Bene, cari ascoltatori, il nostro delirio settimanale è quasi concluso. Ci salutiamo qui. Vi ricordiamo i soliti. Sospetti. Sì, i soliti sospetti, i nostri soliti contatti, ovvero ci trovate su SoundCloud e su YouTube sotto l'account WarioPunk per i nuovi episodi. Poi ci trovate su Facebook nella nuova pagina della nostra associazione, Associazione Area Games di Forlì. E presto, quando l'associazione Area Games avrà il sito, avremo anche una sezione dedicata nel sito, nel multimedia. E per il resto ci trovate tutti venerdì sera al bar President a Forlì, in Viale Roma, in fondo a Viale Roma, il numero civico, questo non lo ricordo, forse era 121. Però si inizia a confondere le cose, dopo la gente si perde. Sì, infatti cercate il bar President Forlì che è meglio. Anzi, President Park è il nuovo nome del bar. E ci trovate tutti i venerdì sera dalle 9, dove serata giochi da tavola con almeno 30 giocatori ogni venerdì. Poi ci trovate come associazione Area Games a Faenza Ludens, non questo weekend che viene, il prossimo. Quindi è il secondo che apre il calendario. Il 17 e 18 ci trovate a Faenza Ludens, dove avremo una piccola zona dentro la manifestazione, dove ci saranno tantissime altre associazioni, sia di modellismo che di giochi a tavola, quindi ci sarà da giocare per tutti i gusti. E poi saremo a Empoli Games, quindi se avete Oh. in ascolto ci sono amici toscani, saremo anche a Empoli l'1 e il 2 ottobre. Sì. L'1 e 2 ottobre per la manifestazione di modellismo statico di Empoli, che è la sua terza edizione, noi siamo sempre stati. E Tante avremo miniature, anche signori, tanti giochi di miniature ci saranno. E porteremo, cos'è che porteremo già? Mason Ah, Mystic? Mason Mystic. Esatto. Poi c'è un certo insolito sospetto che forse si porta Spectre Ops. Thanauser? Thanauser di Solerio, poi abbiamo Arcadia Crossmaster? Quest, Arcadia no, no, Quest, non è Crossmaster, sono due cose scusa. È diverse. nel testone, mi sono sbagliato. Non sono neanche un testone così grande quel In gioco. più avremo i due miei giochi originali, il Pandemonium, lo skirmish 3D rane con tartarughe che ho portato l'anno scorso a Empoli, che ha debuttato. Di qui trovate anche la versione print and play gratuita su internet, cercate Pandemonium Micio Segone. Come sono disciplinato. E il mio nuovo gioco che sto facendo in questo momento, prima quando ho detto che ho le mani occupate perché sto lavorando alle miniature, è Rhino Ferox, che è un wargame da due giocatori, che è un po' una guerra dell'anello mista a pochi acri di neve, quindi ne vedremo delle belle a Empoli. Ok, Via via. per settembre questi sono i nostri appuntamenti associativi, mentre per le puntate di Alla Conquista del Gioco ci sentiamo ogni giovedì sera a scanso di contrattempi. Ci salutiamo qui, per il terzo episodio è tutto, vi saluto, ciao da Pietro e Claudio. Ricordatevi, Diamonster tiene fino a 3 giochi di carte nella sua scatola, quindi è un'ottima fonte di porta espansioni per season o giochi vari, quindi va acquistato solo per quello. Non costa molto, è bello, ma è troppo grosso. Suona Ciao a tutti. È male detta così. bello, ma è Ciao. troppo espanso. Ciao. Ok, ciao.